La vita è un grande volo e a volte serve un colpo d'ala per farci crescere, salire un po' più su o solo capire che il vento è più forte di noi. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, bentornati al podcast di Effetto Giorno. Al microfono come sempre c'è Simone Spezia e come sempre in questo podcast tentiamo di rimettere insieme i pezzi di questa giornata, di fare un riassunto delle notizie principali, di farvi riascoltare alcune delle cose che ci sono sembrate più significative di quello che è andato in onda nel corso della trasmissione. Di cosa ci occuperemo oggi? Naturalmente ci occuperemo della situazione del maltempo e della neve. Vi faremo ascoltare tra l'altro un'intervista al direttore della Protezione Civile dell'Emilia Romagna che ci ha detto che ci sono migliaia di persone sull'Appennino che sono senza corrente e non c'è nemmeno chiarezza sui tempi di ripristino. Parleremo di politica perché... Scelta Civica, ormai qualcuno scherza, la chiama Sciolta Civica sui social network. 8 parlamentari di Scelta Civica hanno deciso di lasciare il partito e passare nel PD, nel Partito Democratico. Abbiamo intervistato Enrico Zanetti, che è il sottosegretario all'economia. È l'unico a questo punto rimasto di Scelta Civica all'interno dell'esecutivo, perché hanno lasciato anche il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, Carlo Calenda che è vice ministro dello sviluppo economico, Ilaria Borletti Buitoni che è sottosegretario all'istruzione e che Enrico Zanetti si appresta domenica ad essere eletto segretario di questo partito, ormai ridotto almeno in termini parlamentari ai minimi termini. Parleremo di esteri, andremo in Ucraina con gli aggiornamenti di questa giornata, ci occuperemo di Expo perché ieri la nostra Laura Bettini è stata in visita nei cantieri e ha qualcosa da raccontarci. Tra l'altro a questo dedicheremo un viaggio in GR24 la settimana prossima e poi la chicca finale è l'intervista che abbiamo realizzato con Pasquale Dirella, presidente del Consiglio Comunale di Bari. Vi abbiamo parlato ieri con Marco Zambuto, ex sindaco di Agrigento, dello scandalo delle riunioni delle commissioni consiliari del comune di Agrigento. Che cosa succede? Si fanno queste commissioni, ci si riunisce anche solo per 10 minuti su una qualsiasi scemenza e si incassa il gettone di presenza. Il consigliere comunale incassa il gettone di presenza. A Bari stanno viaggiando al ritmo di 200 riunioni di commissioni consiliari al mese. Il gettone di presenza è di 72 euro. Pasquale Dirella ha provato a rispondere alle nostre domande. Naturalmente giudicherete voi che cosa ha detto. Già l'avete fatto via SMS, ne sono arrivati tantissimi da parte vostra, molto duri, molto cattivi. Alcuni ci dicevano fatelo smettere, non riusciamo a sentirlo. Comunque lo sentiremo tra poco. Iniziamo dal maltempo. Qualche ora di neve, il centro nord si trova ancora una volta a fare i conti con la circolazione interrotta su alcune strade e autostrade e treni regionali ma anche dell'alta velocità che viaggiano con ritardi medi di 60 minuti, colpito in particolare il nodo ferroviario di Bologna. La città si è svegliata sotto 20 centimetri di neve, lezioni regolari ma mense chiuse, chiuso e poi riaperto anche l'aeroporto. I bambini non sono andati a scuola in molte città della regione, disagi anche la circolazione stradale, in particolare sulla 1 tra Firenze Nord e Sasso Marconi, mentre vanno diminuendo le code dei mezzi pesanti che si erano formate sul tratto appenninico. Problemi alla circolazione anche in Piemonte, nel Cuneese, in Toscana, in provincia di Firenze e Pisa e in Lombardia, in particolare sulle autostrade che portano ai laghi. A Brescia 90.000 persone sono rimaste senza elettricità per un blackout. In Romagna, nelle Marche, si sono registrati allagamenti, in particolare a Cesenatico, Rimini e Senigallia. Neve anche in Sardegna, nel Nuorese, dove sono chiuse le scuole in diversi comuni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il servizio, gli snodi critici ce li racconta Maurizio Mainetti, che è direttore della Protezione Civile dell'Emilia Romagna. La situazione più critica, ce ne sono due in Emilia Romagna rilevanti. La più critica sicuramente è lungo la linea di costa per la fortissima mareggiata e le piogge che sono verificate nello stesso periodo della mareggiata e quindi con i corsi d'acqua che non hanno potuto recapitare l'acqua a mare. Questo ha portato allagamenti diffusi fra Comacchio, quindi fra i lidi ferraresi, e Riccione, quindi con decine di persone che sono state sgomberate dalle loro case, una situazione di allarme dal punto di vista della protezione civile, dove i comuni, i vigili del fuoco e tutte le strutture tecniche sono impegnate a fare il possibile per ridurre il disagio. È una situazione però che continuerà a mantenersi critica, perché per la prossima notte è previsto un altro picco di onda, anche se inferiore a quello della notte precedente. L'altro punto critico, ecco, è l'Appennino, perché oltre le nevicate, quindi il disagio soprattutto nelle prime ore di stamattina, anche in pianura per il traffico veicolare, abbiamo decine di migliaia, ci sono purtroppo decine di migliaia di utenze di energia elettrica interrotte da... Ha detto decine di migliaia, Mainetti? Decine di migliaia, da Reggio Emilia fino al Bolognese, perché purtroppo questa neve particolarmente pesante ha causato la caduta di alberi sulle linee elettriche, non solo la bassa tensione, ma anche linee elettriche ad esempio di Terna, quella dell'alta tensione o della media tensione, che attraversano l'Appennino e dove i tempi di intervento sono, nonostante che sono lunghi, nonostante che queste società stanno facendo di tutto per intervenire e per ridurre al minimo appunto i tempi di intervento. Naturalmente, ma lunghi quanto? Io capisco che sia difficile stimarlo. Si va da ore a anche possibili anche 24 ore. Queste sono situazioni che però possono cambiare di momento in momento, perché gli uomini di questa società sono sul posto, stanno cercando i guasti e mano a mano che vengono riparati le utenze vengono ripristinate. La cosa che si può dire è che effettivamente è un disagio molto rilevante, perché questo coinvolge aree ampie con anche qualche ospedale, case di riposo eccetera, dove si sta operando con gruppi elettrogeni delle stesse strutture o anche fornite dalla Protezione Civile regionale. Restiamo sulla cronaca, poi passeremo a parlare della politica, per segnalarvi anche una nostra trasmissione con una storia interessante da raccontare e per certi versi terribile. La trasmissione Storiace della nostra Raffaella Calandra, in onda alle 21.30 di sabato, quindi mi raccomando ascoltatela, questa è un'anticipazione. Si parla di pedopornografia e c'è anche l'intervista ad un poliziotto che sotto copertura ha fatto, potremmo dire, il pedofilo sotto copertura, e racconta: mi sono stati offerti dei bambini rom. Sentiamo. Sono sempre di più quelli che lo fanno. Ragazzini che si filmano nudi e poi postano il video. Come sempre di più, 300 i denunciati solo l'anno scorso sono i minori che pubblicano immagini sessuali di coetanei, e tutto finisce nel grande mare dei social network, popolato però anche da squali ben più adulti e ben più pericolosi. Così, se il cyberbullismo, stando all'ultimo rapporto della Polizia Postale, è un'emergenza sempre più preoccupante, resta la pedofilia, il grande mostro da fermare nel mare virtuale, un mostro che naviga nel deep web, laddove le tracce si cancellano e gli incontri sono solo ravvicinati, ma in queste stanze chiuse sempre più spesso riescono ad infiltrarsi anche agenti sotto copertura, come Franco, nome di fantasia di un poliziotto che per catturare i pedofili è stato addestrato a pensare come loro. Si studia proprio a tavolino conversazioni vecchie per capire cosa diceva, cosa voleva intendere, prepararsi esattamente una vita parallela. In queste stanze virtuali, suddivise per età e preferenze, oltre alle più odiose delle immagini circola anche il manuale del pedofilo, istruzioni per sfuggire ai controlli o ancora per adescare un bambino al parco, si legge. Ma prima di arrivare a ricostruire affari ed interessi di chi gestisce i vari siti pedofili, a queste squadre speciali capita anche di doverli incontrare, come in un caso svelato da Franco a Storiacce. Con il suo furgone ci ha portato davanti a un campo a Rom dove secondo lui potevamo prendere dei minori. Storiacce che escono dal web, anche se spesso lì sono iniziate. Storiacce che devono spingere i genitori ad insegnare ai figli a navigare nel mare insidioso della rete. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo finalmente alla politica, politica che si compone essenzialmente oggi di una scomposizione, ossia quella di Scelta Civica. 8 parlamentari che se ne vanno, la cronaca di Elisabetta Fiorito. Direi proprio che Scelta Civica al Senato di fatto non esiste più, in 5 confluiscono nel PD, tra i quali il ministro dell'istruzione, la senatrice Stefania Giannini, il viceministro Carlo Calenda e poi anche Ilaria Bortoletti Buitoni e Linda Lanzilotta. Resta invece nel partito fondato da Mario Monti Benedetto Della Vedova. In tutto sono 5 senatori e 3 deputati a passare nel PD. Secondo le motivazioni scritte dagli 8 nella nota, il PD renziano ha assorbito il centro della società prima ancora che quello politico, ha assorbito la base sociale ed elettorale di Scelta Civica, che infatti grazie alle elezioni europee nel maggio scorso ha scelto in massa le liste di questo nuovo PD. È così venuta meno la ragion d'essere originaria di Scelta Civica, che rischia di ridursi ad un piccolo partito dedicato. Un passo, quello degli 8, Simone, per il partito della nazione, ha spiegato poi dal premier Matteo Renzi, ma c'è qualcuno che dal centro-destra cerca di opporsi a questo progetto ed è Raffaele Fitto, che continua la sua battaglia in Forza Italia, lancia la convention dei ricostruttori del centro-destra e l'appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio a Roma. Come si diceva, abbiamo sentito Enrico Zanetti, che è il segretario in pectore di Scelta Civica, al quale abbiamo chiesto subito una valutazione. Soprattutto il nostro gruppo al Senato ha, direi, aderito in modo praticamente granitico a un invito non esattamente molto elegante tra alleati fatto dal segretario del PD e quindi hanno traslocato armi, bagagli e relative cariche, perché in effetti al netto del sottoscritto di fatto questo gruppo comprende tutti gli altri nostri rappresentanti nella delegazione di governo. Quindi rimane solamente lei come rappresentante di Scelta Civica nell'esecutivo? Beh, in questo momento anche il senatore Della Vedova, che tra l'altro è l'altro che insieme a me domenica al congresso di Scelta Civica presenterà la sua mozione, con la quale si è candidato, al momento devo dire anche lui non ha aderito a questo invito, anche se mi pare di capire che lui resta comunque molto, molto critico, vedremo cosa succede dopo l'8, però è già apprezzabile, devo dire, a differenza degli altri, che quantomeno viene al congresso, cioè nella sede dove una comunità politica decide, anziché comportarsi come una semplice sommatoria di destini individuali, è già apprezzabile, ripeto, che l'8 ci sarà e ci confronteremo. Che cosa ne pensa di questi suoi colleghi che hanno lasciato il partito? Scelte individuali sono legittime, in politica si è visto sempre di tutto, è indubbio comunque che c'è poca disponibilità, ripeto, ad accettare le logiche di una comunità di persone, fino a che decido io va bene, quando decidono gli altri non va più bene, la gran parte di loro ha ricoperto, a parte le cariche di governo, ma ha ricoperto le cariche direttive del partito nel primo anno di vita, cioè nel periodo in cui siamo scesi dall'8% all'1-1,5%. Io non ho condiviso tantissime cose, ho sofferto molto in quell'anno e mezzo, ma ovviamente ho sempre accettato le logiche della maggioranza, ho lavorato con il tempo per poter essere io eventualmente l'interprete del comune sentire del partito, ed ecco che a 2 giorni dall'evento chi evidentemente non è disposto a perdere prende il pallone e se ne va. Senta Zanetti, detta francamente, perché poi la domanda che si fanno tutti, ha ancora senso tenere in piedi Scelta Civica secondo lei? Scelta Civica civica come bandierina, orgoglio, scelta civica, no, ma a prescindere da questo evento, il congresso aveva proprio come oggetto due mozioni che si confrontano, l'una per dire sostanzialmente chiudiamo baracche e burattini e rimaniamo solo come parlamentari, che a mio avviso però è una soluzione molto comoda per gestirsi il proprio ruolo nella più totale irresponsabilità rispetto agli elettori, rispetto agli attivisti che ti hanno dato anche una mano in campagna elettorale. L'altra, la mia, era quella di dire ripartiamo, ma non ripartiamo per fare il rilancio di Scelta Civica in sé, ripartiamo per fare il rilancio di un'iniziativa politica di cui Scelta Civica avrebbe dovuto essere interprete, non ne è stata capace, cioè un'iniziativa politica con una forte caratterizzazione liberal-democratica, riformista e anche, direi, pugnace piuttosto che eccessivamente sobria e vellutata nei toni. Quindi, come dire, dal suo punto di vista ha senso, cioè come progetto politico ha ancora un senso in sostanza? Io credo che come progetto politico quest'area ha assolutamente bisogno di essere interpretata. Poi un altro discorso è dire se noi siamo degli interpreti adeguati, forse non lo saremo, ma credo che sia un nostro dovere, prima che un nostro comunque diritto, provarci, perché abbiamo avuto comunque un'occasione importante di fare qualcosa per il paese, di avere anche una visibilità che deriva dai ruoli, e dobbiamo metterla al servizio di tante altre persone che hanno voglia, come ne avevamo noi, di cercare di cambiare la classe politica dirigente di questo paese, non sederci sui nostri scranni e guardare a chi, avendo già ampio consenso, può semplicemente garantire a noi in modo più comodo di perpetrarli nel tempo. Dobbiamo metterci in gioco e dare la possibilità anche ad altri di avere quelle opportunità che sono state date a noi. Io vivo così la mia missione politica, poi sbaglierò, ma credo abbia un senso quello che dico. Ultima domanda, Zanetti, se la sente di rimanere al governo in questa situazione, anche con, ripeto, con quello che lei considera uno sgarbo dal punto di vista politico, il Presidente del Consiglio, questa chiamata, come dire, alle armi dei suoi deputati e senatori? Ma guardi, io in questo momento separerei i due piani. La chiamata alle armi l'ha fatta il segretario del PD e il fastidio, credo legittimo, lo prova il segretario in pectore di Scelta Civica. Vediamo domenica se appunto la mia mozione, come spero sia, prevarrà. Per quanto riguarda il governo, si tratta di ragionare su quello che facciamo come governo. È chiaro che se l'ostilità da parte del PD nei confronti di un partito piccolo, ma comunque alleato e leale, continuasse in modo così brutale, ci sarebbero delle inevitabili valutazioni da fare. Diversamente, io credo che l'impegno di governo, se mai dovesse venire meno, verrà meno perché succedono delle cose incompatibili con quelle che sono le nostre priorità programmatiche. È su quello che eventualmente ragioneremo. Se dovesse accadrà, ma al momento io non vedo perché questo si debba verificare, non si è verificato in questi mesi, auspico che non succeda nemmeno in futuro. Certo, se dovessero esserci anche delle diversità di vedute importanti sul programma di governo, ma questo sarebbe un risultato, un esito che prescinde da queste vicende che invece hanno natura partitica. Sul piano partitico oggettivamente un piccolo chiarimento ci deve essere, perché non è neanche possibile, insomma, comportarsi in questo modo. Siamo all'estero, la crisi in Ucraina, è previsto nel pomeriggio a Mosca l'incontro tra Angela Merkel e François Hollande, domani a Monaco si incontrano i capi delle diplomazie di Stati Uniti e Russia, nel frattempo proseguono le violenze, si segnalano ancora civili morti, è stato aperto per fortuna un corridoio umanitario, ma come già vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, intervistando tra l'altro Andrea Ciocca, il capo progetto di Medici Senza Frontiere a Donetsk nell'est dell'Ucraina, anzi vi consiglio di andare anche a scaricare il podcast di quel giorno, era due o tre giorni fa, perché il suo racconto è molto interessante, bisogna vedere se questo corridoio umanitario funzionerà. Comunque la cronaca di oggi è questa. È tutto da vedere, la tregua non è scontata. Parole di Angela Merkel in partenza per Mosca, dove nel pomeriggio la cancelliera tedesca e il presidente francese François Hollande, dopo il colloquio di ieri con il capo dello Stato ucraino Petro Poroshenko, incontrano il leader del Cremlino Vladimir Putin con l'obiettivo dichiarato di bloccare l'escalation e spingere le parti, il governo di Kiev e i ribelli filorussi ad accettare un cessate il fuoco. L'iniziativa franco-tedesca è volta a preservare la pace europea, ha aggiunto Merkel, un pressing diplomatico che proseguirà domani a Monaco di Baviera a margine della conferenza internazionale sulla sicurezza con l'incontro tra i capi delle diplomazie di Stati Uniti e Russia, John Kerry e Sergei Lavrov. Kiev intanto ha confermato l'apertura di un corridoio umanitario per consentire l'evacuazione dei civili dalla zona di Delbatseve, nuovo fronte caldo del conflitto nel Donbass, dove nelle ultime 24 ore sono morte altre 3 persone. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo a parlare di Expo. Manca poco, ormai mancano circa 3 mesi all'avvio di Expo 2015. Siamo andati a visitare i cantieri e... anzi, ci è andata Laura Bettini. La settimana prossima, come vi dicevo, ci sarà un viaggio dedicato da Radio 24 a tutto questo, all'avvicinamento ad Expo, una settimana nella quale all'interno dei giornali radio vi racconteremo appunto lo stato di avanzamento dei cantieri, sentiremo delle interviste e altre informazioni. Intanto Laura Bettini ci racconta che cosa ha trovato sui cantieri dei padiglioni. Cosa vi posso dire? Che effettivamente loro dicono di poter completare la parte complicata, quella strutturale, dei lavori entro il 31 marzo, e direi che, sia pur non essendo io un'esperta né ingegnere né architetto, però apparentemente effettivamente questo è possibile. Tutto quello che verrà dopo sarà l'allestimento interno, l'abbellimento, la parte quella estetica dell'Expo, però la parte solida sarà completata. Sarà completata e tutto questo ce lo racconterai la prossima settimana. Nel frattempo domani c'è una giornata importante, perché al di là del nutrire il pianeta, il titolo dell'Expo, c'è da riempire di contenuti tutto questo, e domani ci saranno una serie di tavoli dedicati proprio a questo, che daranno i contenuti di questo Expo. I contenuti, sì, si è molto discusso anche di questo, perché sappiamo tutti nutrire il pianeta, energia per la vita, ma cosa vuol dire questo? Si cercherà di tradurlo in idee, un po', cioè anzi di passare dalle idee alla concretezza in questo incontro che domani si tiene all'Hangar Bicocca di Milano, dove arriveranno praticamente tutto il governo, perché ciascuno declinerà nel suo settore quello che può essere il contenuto da portare in Expo. Quindi si parla di agricoltura, si parla di ambiente, ci sarà anche il ministro Orlando, però, per dare un'idea, perché ci sono anche i temi della giustizia da affrontare in questo contesto, e si lavorerà tutti insieme, qui si parla di 500 esperti di ogni settore, si lavorerà anche a questa famosa carta di Milano. Noi ne abbiamo sentito parlare in passato, che cos'è? È un documento che si vorrà sottoporre nel corso dell'Expo a tutti i paesi partecipanti, affinché attraverso questo documento, un po' come hanno fatto a suo tempo con il protocollo di Kyoto, che però non è andata a finire benissimo, comunque si spera in un esito migliore, attraverso questo documento si impegnino a promuovere un sistema alimentare più sostenibile, più giusto, più anche sano, perché il mondo soffre di due grandi problemi in questo periodo, l'abbiamo detto anche in questo caso più volte, cioè, ci sono i paesi troppo ricchi dove c'è l'obesità, i paesi troppo poveri dove c'è la morte per fame, no? Quindi il paradosso che dovrebbero i paesi impegnarsi a eliminare con la sottoscrizione di questa carta. E visto che parliamo di alimentazione, oggi era anche una giornata di proteste di piazza della Coldiretti, che ha portato le mucche in una serie di piazze d'Italia per protestare contro la situazione degli allevatori e degli allevamenti. Il latte è pagato ormai molto poco, tra l'altro sta per scadere il regime delle quote. Sentiamo. 36 centesimi pagati all'allevatore, fino a 1,70 euro il costo per il consumatore. Succede al latte. Il 1 aprile si concluderà il regime delle quote, il mercato tornerà libero e gli allevatori italiani temono la decimazione. La crisi prima e ora la discesa dei prezzi alla stalla ha cancellato oltre 30.000 posti di lavoro, in un settore in cui sono impiegate 180.000 persone. Nell'ultimo semestre abbiamo visto abbassarsi il prezzo del latte da 44 centesimi e mezzo a 36 centesimi, quando i nostri prezzi di produzione hanno continuato ad aumentare. Lei è Vilma Pirola, allevatrice di Pavia. Con 36 centesimi, dice il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, non si coprono nemmeno i costi per il mangime degli animali. Oggi noi importiamo oltre il 40% del nostro latte e il consumatore non lo sa, perché non ci obbligo in etichetta né sul latte a lunga conservazione e né sui formaggi e sugli altri trasformati del latte, ad eccezione dei prodotti a denominazione d'origine. Poi dobbiamo iniziare a chiamare formaggio solo ciò che deriva veramente dal latte. Dunque l'origine certa in etichetta è il punto di partenza necessario e qui la stoccata va alle imprese di trasformazione. E poi la collaborazione tra i soggetti interessati, sottolinea il ministro per le politiche agricole Martina. La chiave fondamentale del rapporto, in particolare nella filiera lattiero-casearia, è l'interprofessione, dove tutti i soggetti della filiera facciano insieme lo stesso mestiere. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo quasi in chiusura, prima di chiudere l'intervista che vi promettevo in apertura, un'intervista che avete, che chi ha ascoltato in diretta la trasmissione ha commentato durissimamente via SMS, alcuni sembrava quasi che si volessero tappare le orecchie, qualcun altro ci ha scritto grazie per questi 5 minuti di ilarità. L'intervista è con Pasquale Dirella, presidente del Consiglio Comunale di Bari, e la questione è quella che vi accennavo in apertura, ossia le commissioni consiliari. Cosa sono le commissioni consiliari? Sono delle commissioni composte da consiglieri comunali che vengono riunite un po' come le commissioni parlamentari per fare audizioni, a volte prendere delle decisioni, solamente che ogni riunione di commissione consiliare porta un gettone nella tasca del consigliere che vi partecipa. E così si trova il modo di pompare questo numero di riunioni delle commissioni consiliari quasi indefinitamente. A Bari stanno viaggiando a un ritmo pazzesco, 200 al mese. Abbiamo dunque chiesto a Dirella di darci qualche spiegazione. Innanzitutto voglio chiarire che la corresponsione del gettone di presenza ai consiglieri per la partecipazione alle sedute e di consiglio e di commissione è prevista dalla legge. Intendo peraltro sottolineare... Sì, va bene, però ci sono, mi scusi, sono consigli comunali che fanno meno riunioni di commissioni. E per certi versi, diciamo, io penso che questo sia ben poco meritorio, nel senso che è il caso di spiegare a chi ci ascolta che oltre un certo tetto di presenze non viene più corrisposto alcunché ai consiglieri comunali. Per quanto riguarda il comune di Bari, ad esempio, il tetto di presenze da raggiungere per ottenere il massimo dell'indennità per i consiglieri è 34. Comprenderà bene. 34 34 presenze mensili. Quindi, che per 72 euro a presenza fanno 7, 14, 25, un paio di mila euro al mese più o meno. Diciamo 1300 euro mensile, ma ciò che ci tengo a sottolineare, perché sennò cadiamo in un grosso equivoco, nel senso che ogni presenza fatta in eccesso alle 34 è lavoro e esercizio del mandato, intendiamoci, ed è giusto che sia così, effettuato assolutamente gratuitamente, perché sono rappresentanti della comunità amministrata e se passano a Palazzo di Città o negli uffici comunali non solo 2 ore al giorno, ma 6, 7, 8, e presenziano alle commissioni per esercitare il loro mandato, non solo fino alla 34. Mi scusi però Dirella, abbia pazienza, io qua leggo da Repubblica che ne tratta oggi, dice: la commissione pari opportunità a Bari che si riunisce per affrontare il tema dei cani randagi, quella dell'ambiente che si riunisce per parlare dell'influenza. Abbia pazienza, a me questa roba da cittadino suona come una cosa: ci siamo riuniti per prendere i 72 euro di gettone. Varrebbe nel caso in cui, come le dicevo, ogni gettone, ogni presenza in commissione fosse retribuita, ma io sto cercando di tranquillizzare i cittadini, non perché devo necessariamente difendere l'indifendibile, che laddove vengono superate le 34 presenze, e qui a Bari ci si, tra virgolette, rimprovera proprio di questo, nulla è dovuto ai consiglieri. Quindi i consiglieri partecipano a queste riunioni impiegando, torno a dire, giustamente il proprio tempo in favore della comunità amministrata, oltre il proprio, tra virgolette, ritorno economico, ma semplicemente perché è doveroso che lo facciano. Se poi qualche presidente di commissione, che ha l'assoluta autonomia nell'individuare calendario delle sedute e ordine del giorno, quindi non compete né al sindaco né al presidente del consiglio comunale, eccede nelle, diciamo, negli argomenti. Mi dica questo, Dirella, a questo punto: quante riunioni di commissioni consiliari fanno mediamente i consiglieri comunali in più rispetto a quelle che gli devono essere pagate, posto che debba essere pagato un gettone di presenza per la riunione della commissione consiliare, che è, come dire, è una cosa che suscita perplessità, però lei mi dice nella legge, per carità, però voglio capire questo, quanto fanno in più? Ci sono dei consiglieri, guardi, si fanno dalle 2 alle 3 sedute giornaliere, quindi moltiplicato, diciamo, 20 o 22, siamo già oltre le 60. Poi ci sono quelle di consiglio comunale, quindi comprenderà che quasi tutti espletano il doppio del lavoro che gli viene, ovviamente uso un termine atecnico, retribuito, perché non è una retribuzione, è una indennità di funzione, un gettone di presenza, e per consentire a chi non è ricco di poter partecipare alla Scusi, quanto incassa un consigliere comunale di suo, di stipendio, diciamo così? Al netto, cioè detratte, siamo intorno ai 1300 euro, cioè quanto un impiegato di livello D. Tenga presente poi, che le poi ci sono i rimborsi, tenga presente che le responsabilità che assume a livello patrimoniale, non dico penale, ma patrimoniale, un consigliere comunale sono di gran lunga superiori, dovendosi trattare in consiglio comunale e nelle commissioni materie complesse, quali l'urbanistica, ad esempio. Cioè, io sono fuori da questo, mi consideri arbitro. Ed è veramente tutto per il podcast di Effetto Giorno. A curarlo per la parte tecnica c'era Valeria Bernardi, in redazione, come sempre, in assistenza c'è stata Laura Fagin. Io vi ringrazio per l'ascolto. Mi raccomando, critiche, domande, informazioni, tutto quello che volete. Effetto Giorno, @radio24.it, la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Se avete scaricato questa puntata per caso, fate che non sia più così, e anzi iscrivetevi al podcast, così avrete gli aggiornamenti quotidiani. Vi saluto e ci sentiamo naturalmente lunedì alle 13:00.